sollevi, aspiri, come quando uno fa il fisico quando vede una bella donna, ecco, per farsi vedere bello grosso, ecco, devi aspirare così e poi buttare, alzare la gamba in alto, contare sino a 5 e abbassandola piano piano butti fuori l'aria. E così fa un esercizio sulla gamba e sull'altra, lo fa 10 volte sulla, 10 volte sull'altra. Questo è uno degli esercizi che ti possono far bene per le gambe. Poi c'è anche quello per i piedi, io te lo dico perché ho esperienza, perché le ho fatte queste cose, quindi l'esperienza ce l'ho perché l'ho fatto su di me. Sì, ma infatti come hai detto tu, io tipo quando mi sdraio nel letto, perché io proprio tipo a allungare le gambe non ci riesco, perché da quando mi hanno rotto la schiena praticamente io non riesco a rimanere dormito né di schiena né di pancia. Però se mi metto di schiena come hai detto tu, che piego le gambe, le sollevo tipo come hai detto tu, 5 volte una, 5 volte l'altra in su e le abbasso, riesco a farlo. Però lo faccio 2 volte, 3 volte da 5 volte tipo le sollevo a destra e lo faccio per 3 volte, poi tipo 5 volte all'altra per 3 volte. Che se pareva giù anche di gimenta in maggio a buio. Però il problema è che sì, me le relassa dopo un po'. Però come si mettono poi di nuovo in compressione siamo sempre a punti a capo, perché a livello di fare ginnastica solo lì si abusiva, a chi dalla schiena non pilotano, capito? Non pilotano. E fare andare avanti le dita dei piedi, avanti e indietro, così, piegando, no? Come quando tu primi, ti si piegano così, avanti e indietro. Allora, quel movimento lì lo devo fare tipo quando mi metto un po' in piedi, che provo a incassare i piedi, tipo con i buchi, no? E un po' funziona, però maledetto non ce la fa, perché dalla schiena lo fai 2 o 5 volte nel senso, e poi ti si intorpidisce ancora di più facendo così con i piedi, capito? Uno di perso dall'altro, io le ho fatte quando praticamente mi hanno operato la gamba e avevo questi dolori alla schiena, cose, e sono andato a Canica e facevo gli esercizi lì, capito? Me l'ha praticamente ordinata l'ortopedico e ho fatto 10 sedute una volta e 10 sedute l'altra, ma già abbiamo fatto bene, sono regaluzzito di nuovo. Ehi, agappa, no, io allora per la storia di quell'ancalà avevo fatto qua a Sosso, c'era un fisioterapista bravo, adesso si è spostato in un altro angolo, però ti dico che quello lì mi ha fatto camminare a me, a chi avevo i dolorini, come hai detto tu, porto operazioni all'anca, sembrava che ero di tutto un robot, e invece poi, grazie a Dio, funzionava molto bene. E il fatto è che poi era successo questa cosa, questa schiena, da una visceria, ravvini, mani traumatizzato a chi. Prima era il discorso che avevo la schiena dolorante e camminavo con le stampelle, sul giro faticante camminavo. Poi da quando mi è caduta quella stampella involontariamente sul piede, che praticamente quando c'hai le gambe che non funzionano bene, a volte si gonfiano, a volte si sgonfiano, e quindi si sono intorpidite, si è intorpidito quel piede e drenava appena appena di liquido, ma appena appena. E invece da voi a Sassari, ma qui vuole pulito, c'è la fibrina, c'è quello, e frea, e me l'hanno cugliato il cubino. E quindi un medico che mi incassa, che dico ascolta, siamo partiti che avevo il piede tranquillo e avanti non esegui più questi video. No, già lo curiamo, è riguglione, e mi va a sclerà. Sì, guarda. Allora, a me continuavano sempre a pire, io dovevo andare ogni giorno, loro mi facevano, detto già te lo metto a posto questo piede, vieni ogni giorno qua, ogni giorno prendeva il bisturi tata, e tagliava tutto attorno. Mi ha fatto una voragine, da un pezzettino piccolo di vera mi ha fatto una voragine. Ha detto che non cresceva la carne e praticamente è per quello che non si che praticamente non si ricomponeva il tessuto. E allora sono andato, non mi sono fermato, sono andato anche si chiamano quelli che tengono la pelle da una parte e te la mettono all'asca, adesso non mi viene il nome, vabbè, comunque sono andato e mi ha detto che non faceva togliere la pelle dalla cuccia e metterla sotto al piede la carne, perché la pelle del piede è molto più grossa di quella della cuccia e quella della cuccia si frantumerebbe essendo sotto al piede. E quindi ho lasciato perdere anche quella pista lì. E infatti, allora, quella dottoressa di Sassari si è chissà ne andati giù alla stecca bianca, questa bionda, che c'era sempre un visto di rastigliano e pente. Infatti sotto, nelle vista, me le ha raschiate male. E quindi, però tipo la pianta del piede sotto, la pianta del piede è tranquilla. Il fatto è che su e sotto le solidittine che si può scoperchiare che drena. Quando io mi metto come detto tu le pomate ricosi è appigli tutto, a chi devi curare attorno a tutti i cosi da capo ma fa la città ubbia. E quindi preferisco io risciacquarlo tipo cosa ne so, con acqua e bicarbonato, lavarlo normale, dai, lavarlo bene. E poi mi metto la carta asciutta. La carta asciutta come si impregna, mi raggavo e mi asciutto i rubini, a chi se non il piede umido non va bene, non guarisce mai. E glielo detto, allora, ma ci vuole tempo qui, ma era tempo che gli dici. E dico, qui le cose o le sappiamo o non le sappiamo, chi è stato da Bobby. Ti ascolti un attimo. Oggi io sono l'agito, un paziente l'agito con la mia patologia di talassemia. E so quasi 47 anni l'agito, che l'agito salgo e vengo qua a casa. Dico, ma secondo lei, io nel corpo umano non capisco niente secondo lei. O cosa pensa che sia un gino, uno che non comprende un accidente? Ma allora, comunque se vuoi venire a curarlo, venire qui ogni due giorni. Ed io mi andavo a Sassari il mio divino perché a casa c'ho le scale e devo chiamare l'ambulanza. Questa mia volta pago 80 euro di andare a Sassari, io per fare la terapia con tu mio, o per andare a fare una cosa, per fare l'altra. Questa ha detto, ma mica non sono la gente di Agacana, mi ricordo di Agacana io. Ma purtroppo queste cose funzionano così. Ah, così scusa, per voi funzionano così, a chi vi piace a fare dei nani barda. A chi la muica mi blocco, e quindi che faccia le cose. Comunque prova che sta lo silver spray, che è secco, come è praticamente tipo penicillina, ce n'è presente la vecchia penicillina. Ce l'ho quella lì, c'ha un nome strano adesso. L'ho trovata sia in polvere che in pomata. Però adesso mi faccio prendere questa che c'è qui. Alo Silver Spray, così è. Alo Silver Spray, in farmacia. Oppure ci sono anche marche che sono più o meno uguali a quello, però se trovi quello è ancora meglio. Quello lì a me mi ha fatto bene in un mese, mi ha fatto abbassare tutto quanto. Quello con l'oro colloidale lo vedo in farmacia, costa sulle 11-12 euro l'oro colloidale. Io l'avevo comprato qui alla fine perché avevo finito quello di quella amica mia, mi dava fastidio ridirglielo, quindi l'ho comprato in farmacia. Ho capito, no, adesso domani se c'è qualcuno me lo faccio comprare a vedere, un filo blu, a chi, cioè come hai detto tu, tutti i disobbedienti, tutti i gol. Da voi viene la dottoressa chissà quella che viene, tipo dell'Ali, che va a chiusa perché per fare tipo 3 mesi della trasfusione veniva quella dottoressa per farmi pulire, e quindi l'hanno mandata anche per tipo pulirmi il piede, medicarmelo. Ma è inutile che ravvini, cioè mi fa la richiesta delle medicine che mi servono, tipo le garze, il cerotto, lungo. Certo, da voi arrivi nella farmacia e mi mandano i tubuli. E cosa accusa un attimo, è da curare il governo, Gianni. Tanto male che mi arrangio io. Perché da voi rimango stressato la mattina, perché loro vengono dalle 8 alle 2. E io non si può mai arrivare. Un po' di volte viene, magari il piede me l'ho lavato, me l'ho pulito, eccetera. Un po' di volte viene e mi si sdraiato, perché non posso stare sempre bugiardo, complice. E quindi mi sdraio, ho la cameretta lì, il salone è qua, e quindi sto dispone ogni tanto da un lungo all'altro, un po' col barattino, un po' con la radiolina portatile, e niente. E quindi sto con gli stelle di far guarire i subiti, perché così almeno sono un po' più, come si dice, autonomo. Sì, dici, vedrai che se ti metti quello che ti ho detto io, a 99% ti passa, perché io ti ho detto ero 5 anni così, mi ci va pus, farò tutti in un viaggio che fazia, anche se lo pulivi, lo facevi, io sempre putrefatto. E c'è quella sorta di liquido trasparente che poi alla fine, magari secondo cosa vivo o secondo cosa mangio, visto lo viaggio di lui di e mangi, esci da questo liquido. Nel senso che, guarda, io non ne so più, io quando sclero nel senso di, certo, e a parte che mi ci ho i nervi della schiena che mi fanno uscire fuori già, e mi devo fumare una lacchibic, mi devo fumare, altri sinoni, non ho tutto che tengo, per rilassare tutto il sistema nervoso, perché l'unica cosa che ti fa rilassare il sistema nervoso è neurologico, che è la macchina. Invece di più battigli, biligidio, camomilla, ghidella, e cosa fai? Non fai nulla, non fai. Capito? Adesso proviamo, sono un tempo prima di tutto il nome di lui, di camomilla. Così la provo, e se tutto va bene, e grazie a Dio, io arrivo a vedere, e là capito. Perché quella dottoressa che è più giovane di me, che pensa che si sarà questa cosa, a me mi ha dato di mani di là. Ci sono giovani che sono più esperti di quegli anziani, tante volte ne sono più giovani degli anziani perché sono più, hanno studiato di più, fanno corsi, fanno, invece quegli anziani sono ancora all'era di minnato. Sì, ma infatti la cosa è selettiva, compreso, nel senso che ci sono giovani come tu che gli piace e portano avanti la missione che vanno in campo, e l'altro sono solo baffadinani e farsi vedere che allora all'epoca non studiato e sono diventati di storia, e cosa andare, da che non riesci da buia a fare un po' sulla gente, capito? Il discorso è sempre quello, c'è chi ha la passione, la cosa, e porta avanti il programma, e invece c'è chi è meno prevista, come se lo sta qui, e fa di giù solo a fare bene, come se l'automulanza, ogni volta che andiamo a Sassari, per sembrare l'automulanza di un gattone animato, sta canta a ruccare, la bugia, come sono le strade così, ma cosa sono le strade? Si lavora in gatto a fare revisione di l'automulanza di Guzmino che era fatto sta canta a tutti. Allora, già 80 euro sono tante, qua prendono 50, a quanto so io. Poi, allora, se mi siamo ammalati l'ho fatto per 17 anni, non un anno, E noi eravamo volontari, però adesso mi sa che volontari non ce ne sono più. E se tu avevi soldi me li davi, se non c'avevi soldi non facevamo nulla, capito? Eravamo così noi. A volte ci mettevamo i soldi in tasca per mettere la benzina, quando non ci davano offerte, se non c'erano soldi, ci mettevamo le mani in tasca, la mettevamo di tasca nostra, la benzina per l'ambulanza. No, ma prima era diverso, adesso è tutto a scopo di lucro, a chi mi va la fattura rugoso perché magari me la posso scaricare rugoso, che da voi non ho mai compreso come si funziona, non mi è mai rientrato nulla. E niente, quindi questa associazione che io chiamo, perché a Sosso non ce ne sono, a Tombolanco non viene più, con la scusa che vengono da Sassari e mi portano e mi riportano indietro, con 80 euro. E non solo, se devo rimanere qualche volontario della Tombolanca, diciamo, con me, tipo un'ora o due ore, a ogni ora mi va il sollevio che mi chiede qui, ma di tu? E io ci voglio andare a voi, a Sassari e a Paparami, non passa a Sassari da voi e andare a fare tutto. Ma noi lavoriamo, non si sente le sue, tutto va bene. E allora a me, mi accompagnate dove mi dovete accompagnare, e andate a fare un video di vada, di telefono e giù, vedete di lui. Vabbè, l'altra volta praticamente li ho chiamati e mi hanno detto che erano a Porto Torres e che anche un'ora di ritardo alla mia sicurezza da tutti erano i 3 mesi. Stanno giù lì, hanno voluto lì, ma lui dice niente, ma l'adesso non stava bene, perché stanno così bene, ma stanno i nervosi, mi si contrae di più anche l'organismo, mi dici tra 10 minuti e bene da un'ora, capito? Quindi c'è anche l'organizzazione che hanno, non è, è un nostro organizzabile, un nostro organizzabile, tu vedi a Tigliana, a Patini, a Nana, a Corrappa, a Dinaebu, una bella, non è che se fai di loro, nessuno fa di loro, e le mie. Ma a Sosso ci sono le ambulanze, c'è Sosso Emergenza e poi c'è Avis. Ma addirittura è venuta a Sassari quella di Sosso a fare un'urgenza a Sassari, vicino a casa mia, non ho capito, forse l'hanno mandata dalla centrale operativa perché era quella più vicina. È probabile, perché quando chiami tipo quella lì devi chiamare il 118 o tipo il 112, ma non me la metto come te va. Invece quelle là, allora se chiami così per tipo portarmi a me a Sassari a far visita o cose, non ci vengono, perché è solo per emergenza. Invece devi chiamare gli sì, come si dice, che sono private, allora quelle lì devi pagare. E qui. Ed è tutto un magnamante, tutto un magnamante, ci sono le lezioni di denaro. Allora noi potevamo anche una signora fare la dialisi e la dovevamo portare molto ma molto spesso a fare la dialisi, perché questa era in attesa di trapianto e la portavamo spesso, aspettavamo lì, la riportavamo a casa, ma non ci siamo mai sognati di fare pagare tanto il viaggio. Ci dava un tanto al mese, ci dava per dire grandi voci di un'offerta al mese e basta. E la portavamo ogni giorno la portavamo noi. Infatti lì così c'era un amico mio che era così, come tutti lo portavano e lui di concori e gli faceva un regalo, ma di cosa ne so, andare via lui, tre volte la ghida, gli dà via Badì, 70 euro, 80 euro, se si faceva il calcolo della benzina che spendevano quelli là magari con la tombolanza e qualche cosa, e quindi a mani chiuse non li lasciava mai. Però questi, quando tu li chiami, vuole dire no e basta, non venuto da fare. Noi facevamo pagare solo se per dire ti chiamavano da Cagliari oppure da Sassari per fare un viaggio a Cagliari. Allora lì almeno la benzina ce la dovevi pagare, perché quello lì era normale, no? E facevamo pagare 15 euro a chilometro, adesso no, 15 mila lire, allora era in lire. E niente. Però perché facevi i chilometri dovevi mettere la benzina, quindi ci volevano i soldi per quello, perché se no noi prendevamo, ci dicevano quanto le devo dare, un'offerta. Quindi ti mettevano a certi 10 euro, certi 20 euro, quello che potevano. Mi facevi la ricevuta e via. Sì, ma infatti prima era diverso. Prima era diverso, invece adesso hanno bigliato tutta un'altra manica di andarsi complice. Perché forse prima la cosa era un po' più seria, vanno per più nulla di seria, va vai, si torna ai surrani, si, stai vesti, non ne arrangiati, capito? Ognuno ha messo la rubia per farabio, va. Poi è un casino, è un casino. E quella che non ha di là per fare i cosi, non si può manco curare. E infatti, questo è. Avevo una scusa, io, bambini, sono così, se non sto uscendo eccetera, qualche cosa me la tutare bene a figurare. Però se uno non ha niente, che sa come tu vai, se non lo so, devi morire, devi morire. Sì, perché anche io per dire c'ho l'esenzione, no? C'ho l'esenzione. Oggi sono andato a fare le analisi, mi fa, queste qui sono tutte esenti, questa non è esente, deve pagare 25 euro. Certo, se c'è un'esenzione sì, ma questa non è riconosciuta l'esenzione, deve pagare. Vedi, è una cosa aiuta. Cioè che Pardini si arrivi giù a 90 e partenzo, perché partenzo devi pagare a tangente. Cioè praticamente mi ho pagato tutte quelle che ho fatto senza pagare. Beh, dai, che lui mi viene dei cavalieri che si finano, no? Se sennò si finti badano andare. Mannaggia, da cui siamo venuti quelli, un cazzo di dire, radiati, che si può fare le bombe e cose, cazzo di curi, che non puoi a fare niente, come si dice, a chi se non diventano gli più intelligenti e quindi non puoi a chi sotto comandati da governo. Cazzo di figari, mi sono capendo, visto che gli disinfettanti, gli civili, e non li so bene con arrivi. A livello di stipendio siamo male figli di questo mondo, tu lavoro non ce n'è, i giovani sono studenti, i paesaggi, lì, tutto mondo è sta soccorrendo, stranieri, gli seguiti da cui, stanno una campagna, il domani non ha capito tutti figli, ma con le aggiunte ha e a me quando l'ho ricordato mi hanno fatto portare salvitine, questo, quell'altro, mi hanno fatto portare tutta la roba che dovrebbero avere loro, e il cotone perché io mi faccio l'insulina eccetera eccetera, tutto l'insulina adesso ci penso io, voi non segnatevelo nemmeno perché su io la dose che devo fare tutto qua. Perché lui dice, ma non è troppo poca così, non si preoccupi, io mi conosco, c'è un fisico, so quanto la devo fare. Lo so, infatti come sta dicendo, e invece dice, no, dobbiamo tenere noi le medicine più, no, funziona così, non so vero che va a giro, non sai più, tu mi sei matrici, quindi se io devo fare per esempio, cosa ne so, 2 mg di destra, ad esempio, come si può scriva per eliminare il ferro, perché quando fare trasfusioni accumuli il ferro, quindi mi devi espellere, se non è giusto. Ce le diamo noi a una certa ora, no, risolvio alla ora del biglietto, a chi ha il biglietto sempre la mattettura, e se magari non la prendo alla stessa ora, lo so io a che ora la devo prendere. Allora sei tu il dottore, sono buono così il dottore, di me stesso sono io il dottore, io sono seguito. Capito, quindi molte volte ti ho capito a stare in 20 anni a spiegare le cose, a non comprendere cosa le vuoi dire, cosa non vuoi dire, a chiedersi di andare a giocare sul diavolo e poi ti istruisci. E noi siamo un momento più pazzo, più preso. Ma non è che non andava, siamo in un sistema mondiale che non funziona un cazzo, un sistema più. Ma te non ti è mai successo che ti danno la terapia, poi cambiano il turno, arrivano gli altri infermieri con la terapia, la stessa che ti hanno fatto 5 minuti prima, vengono di nuovo, e cosa sto facendo qui? Devo fare la terapia, se l'ho già fatta la terapia, quante volte la devo fare? Che cosa ha preso? Lo dicevo, ma qua non me l'ha segnato, non l'ho segnato, a me non mi interessa nulla, io non la rifaccio la terapia, l'ho già fatta. Sì, mi è capitato, anzi addirittura mi è capitato di una linea arrivi da Lista, quando è successo che ho fatto un paio di giorni di ricovero, fai subire di me. Questa rivista la madre, tu hai detto che questa pattuglia è questa, e ma la cosa, perché tu lo sei? E mi dici sei sbagliato, ma sicuro sì. E tu mi che sono io l'unico, magari c'è lo stesso nome mio, ma non sono io. Poi è giusto, ma tu avevi ragione. Perché ha detto, ma com'è che dicono mai molti, se non ve l'ha buttata tutti verso. E invece un'altra da lui, mi hanno fatto tipo una flebo. Aspetta, mi ha finito la flebo e dopo 5 minuti viene a chiedere in infermiera, che suona sul campanello. Adesso arrivi le infermiere e mi dice, ma io adesso devo caricare il turno, sarà tu di quella che viene dopo. Ascolta, il nome Bobo di Nani, anzi fa una cosa ragazzi, vattene ragazzi, vattene anche se non ragazzi di cui la cosa da no. Come se ne andata, ma Gesù su tutto di bambino voleva e mi ho bagnato il cerotto. Ho messo il braccio in alto e me lo porto io la gorgita, vedi tutti i conti della vicina, la gorgita lì da allora, ma ci dobbiamo fare la terapia, perché l'ago non ce n'è, capito, perché l'ago che mi avete messo, la gorgita, già che mi ha montato il braccio, la gorgita mi sta mandando il braccio febbrino, o febbrito come si dice. Tutte le paranoie, ciò, cioè. Ma quando avevamo il vagone massimo, guarda, quindi... ugualmente in ospedale è un conflitto a piedi vanno sette ragioni e tutti sono imbecilli, vanno i rifiutare, a noi si trattano da imbecilli, a tutti i conduetti sono scritti, hanno studiato, vanno il diploma e tutti sono i carrabbetti, di questo. Non va bene perché se uno sta al suo mestiere e sta a ascoltare anche il paziente, fa grandi cose, se invece lo fa tutti di capo giù, non ne faccio di nulla, non ne faccio, ma con carriera faccio. Io penso che non ci sia altro dottore che ci conosca come il paziente. Se il paziente sa, per dire io faccio l'insulina, a volte ne posso fare, cosa ti posso dire, 22, a volte ne posso fare 24, dipende da quello che mangi, perché in base a quello che mangi devi fare, per dire, nella cartella che ti fanno, ti scrivono 22, però se tu mangi per dire di più, ne devi fare due in più, capito? Loro queste cose non le calcano, non guardano solo quello che c'è scritto e basta, tutto lì, da voi tazza. Io dopo che mi facevo l'insulina, mi misuravano la glicemia, caspita, veramente perfetta, ha ragione di chi si conosce, cazzo, me l'ha detto questa infermiera, non si faccia toccare, faccia tutto lì, per quanto riguarda il diabete dice si deve arrangiare lì, poi le altre cure le facciamo noi. Ah, visto che ti sei avviso. Ma infatti lì se hanno bisogno i medici che fanno i ragionamenti che sanno quello che sai fare tu e quello che sanno fare loro. Poi volevo dirti, ma voi quando tipo la fate prima di mangiare o dopo che mangiate questa insulina? Io l'insulina mi misuro la glicemia prima di mangiare, guardo quanto ce l'ho e in base a quello che ce l'ho mi faccio l'insulina. Se vedo che per dire più bassa deve essere per dire a 100-120, se vedo che ce l'ha 80-90 non ne faccio e la faccio dopo che ho mangiato. Ah, ho capito, quindi fai il calcolo dei parametri dell'insulina, sì. No, mio fratello, povero Roberto, va via l'insulina, perché lui faceva l'insulina, faceva tipo come facevi tu, in base a cosa magari si doveva mangiare, prima se la controllava, e poi per esempio cosa ne so, faceva una unità in più, due unità in più, in base a cosa lì. Però vabbè, lui già non era un tipo, gli hanno da mare una dose che praticamente si farà un collasso, quindi non lo so, è la gente a due ore, l'abbiamo già divagliata una mano, doveva andare a fare l'antibiotico, aveva fatto l'antitetanica eccetera. E poi non lo so, sono pisabile mangiando, decido, ha fatto la anzi, sono pisabile, ha fatto la luce, di fumare, si decidi, ha fatto la spesa, l'abbia già battuta giù, perché mi era sposato, e niente. La musa è andata di a casa sua, la moglie di Bastigliano è andata per fare questa terapia davanti di lui e dice non è ripugnato, non è ripugnato, sono entrati e l'hanno debuttato la poltrona parata. Però non c'entrava niente con la figlia di lei. E lui si chiama il rigore, ma a me l'hanno mosso il rigore, niente di lì, hanno studiato di lui, di morto. L'hanno studiato di più, sul pollice della mano, la iappa, una iappa retta, quindi l'ha iniziato direttamente la mano. Però i primi due giorni mi ha detto al dottore, l'ha fatto una spettacolo, c'è la cosa, poi mi ha detto, ma non erano sicuri i morti di questa iappa, la iappa, la stessa iappa. Di lui, di e chissà, la quante si fosse l'ha fatta mio cognato ci ha mandato la figliura e l'ha detto, non è che c'è un telefono di riserva, che mi si è rotto il telefono, dice sì, ma te lo porto, tanto che c'ho la chiave. E è andata a portare il telefono, solo al campanello, prima non rispondeva, ha aperto con la chiave, la ciappa di bussato della poltrona, con il televisore acceso, e di busso, sì, secco, brutto. Gucci, e tutti. Non lo so, magari deve andare vicino, magari cosa ne so io, magari da per fare a nulla, da per cosa, esatto, di agitazione, non vedi tutti. E niente. Quindi è andata lì vicino. E lui era sposato, ma il figlio non ne aveva. Però quando io dico, quando lui non sta si bene, che si chiede guardi, che c'è una moglie, una compagna, lui è. E se vedi che se il tuo compagno, il tuo marito non sta tanto bene, ma manda a travagliare a cercare il mio, già si deve vedere qualche cosa, da fare giudici. O fa una cosa, fa l'altra, ma tu non è niente, usiamo che ci va analizzato un po', ma il giorno non è niente, bisogna una battiglia, bisogna andare qui, ma non funziona di sì, non funziona di sì, sì, ognuno saprà di più l'interesse su, però quando sono di più due giudizini, io sono sempre contrario, sì, e come la giudizio di più, hai un figlio, fatto che gli va fredda, e cosa da tu fai, tu mandi a cura e tu ti mandi a travagliare, a chi non vuoi sentare. Non lo so io come ragiona, non mi riporta la gente, capito? E quindi non sa mai cosa deve fare. E a volte magari non ci pensi che sia una cosa più leggera, però a volte trascurare anche le fesserie, tipo quando uno ha un dolore al braccio o gli fa male la spalla, magari pensi che sia un dolore reumatico, invece dipende dal cuore, magari ti prende un infarto e non sai, che ne sono delle avvisaglie anche di infarti, quindi è meglio che tu vai all'ospedale, ti fai controllare, quando vedi che non c'è nulla te ne vai tranquillo. Però quando succedono queste cose è sempre meglio farsi controllare, non pensare al dolore reumatico, magari ho preso freddo, sai com'è. Un'amica mia mi si è salvata, questo mal di pancia forte aveva mangiato la gassura, come la chiamano loro, perché la gassura, praticamente ha pensato che era pesante di sera, le ha fatto male quello, questo e quell'altro, poi alla fine il marito l'ha regalata a ripilare. C'erano infatti in corso, le hanno messo due pacemaker e l'hanno salvata per miracolo. Sì. Tutto dipende anche dal carattere, dal gusto di agenti, di gusto. Io invece che andavano i bicchini, sempre i bicchini a cammini, aspetta del più 30, se io mi addosso non è frabbinata, mi dà le montinaggi, mi sento di giamini, le scottature, pulendo all'alto, a fare di abbattaglia e mandarini. Ui, avevano come tutti questi bicchini, si avevano tutti i gatti con il telefonino, tutti i gatti con il gabbo imballato. Questi giganti diventano un unicorno, tutti a pomareno, oppure tutti giganti bucati. Ai, umani che mangiano. Tutti rinco sono. Ci sono in camera con il computer a giocare e cose. Anche la radio l'hanno mollata per quello, perché il telefono ti fa fare tutto, capito? Quindi dici che non vengo in voce della radio, uso il telefono, ti fa trasmettere come se fosse in radio, c'è un'app che ti fa trasmettere, non so se l'hai mai vista quell'app che c'è, ti fa trasmettere, c'è il baracchino disegnato, tutte le cose per toccarlo e farlo, e tu parli, puoi parlare con tutto il mondo. Sì, me lo stavamo dicendo, ma no, non ci sono entrato perché c'ho quella radiolina tipo Boafeng, si va con lui di frequente e poi a puttani, però poi solo ascoltare tipo quelli del porto oppure quelli degli aerei, capito? E invece le altre puoi anche parlare, invece di lui devi solo ascoltare. E invece con il telefonino non ci ho mai provato a... perché quella radiolina io la puoi collegare anche al Bluetooth del telefono e si scarica il programma tramite internet per aggiornarlo, mettere le frequenze nuove, capito? hanno fatto il segno tutti di esperimento per conversazioni. Ed è quindi questa radietta che va, la radio AM FM va a portare la musica, e se per esempio mi chiami tu, ti blocca la musica e sento a posto. Tu metto la frequenza, per esempio, perché c'è un minimo che è in 440-600 e parliamo di chi rimane questa frequenza. No, ma batti andavano, sì. Tanto c'è una radiodazione che mi pare 15-20 km di casa di me. E c'è di chi fa. E funziona bene, funziona bene. Sì, già le conosco, lo dico anch'io. Ma io ascoltavo più che altro radioamatori e le frequenze radioamatoriali. Però poi mi ha stufato e l'ho regalato a Bruce. Un amico mi ha fatto un favore e l'ho regalato. E niente, dai. Sì, la conosco, qua c'è anche l'allarme, quando premi il pulsante fa wii. Sì, quella radiolina lì. No, ma io allora, a livello di tipo radio amatoriale ne avevo comprato dai bini, dalla Germania me l'hanno mandato, con tutti i di fascicoli, delle istruzioni, una radio vintage, una IAEU 220 mi pare. Però era in due minuti, praticamente era solo VHS, potevo solo ascoltare. E alla fine, dopo che mi è arrivata l'antenna, che ancora non l'avevo piazzata, mi ha fatto un flash e tutta la me la vendo. Allora me la vendo a flash, ormai se ti ci la borsa alta mi avevo tutta la giustizia, no? La giustizia della polizia, la vita. E l'ho venuta a un signore di Sassari, Roberto Quadrato, diciamo. Sì, e poi era vincente, ed è appassionato al radioamatore. Ed era contentissimo, e allora sta lì, con il microfono IAEU originale. Ah, Roberto, io lo conosco benissimo. Gliel'ho venuta io una radio, 100 euro gliel'ho data, nuova, gli avevano messo le lampadine di mixer, vedi, perché c'ha due semixer di questa radiolina, va. Qui c'ha il pomello da 445 a 447, ma non me la metto neanche la sapere. E niente, però era bellina lì. Ma alla fine dice, ma soltanto non la posso grattare, magari la tenne, che di mezz'ora che sono i contratti per appunto. E allora ho detto a mio fratello, come la mettiamo a prendere? E la trovo lì, io dice, la trovo lì, la trovo più bagaglia, dice, io ho pagato 130, e cosa, ma c'è quello che ho detto 50. Si fa una cosa buona e argentino che non la vuole dire, no, perché se no la dice la biblia pure a terra, che tanto non è più questa. Vieni lì, l'ha chiamato, ma l'hanno chiamato in tanti lì. Alla fine mi ha detto, magari chi l'ha avuto? E poi per dire, lì, perché se non prende la lì, dalla lì, si dice da chiamatore, perché molte volte entrava in un canale, e non si può parlare. Certo, dalla quello che è una persona più tranquilla. Aiutare un attimo di dire qualcosa, magari a livello di qualche formazione di qualcosa, è soprattutto lui, è così. E lo venite a lui, e quindi era contentissimo, c'era la mia radio UHF. E poi a Roberto le piacciono molto le radio, ma di tutti i tipi, anche le radio antiche, tutte queste cose qua le piacciono, le hanno con giradischi, incorporato, le piacciono tutti i tipi di radio. Sì, ma lì quel VHF che gli ho dato io è tipo d'epoca, perché, come si dice, lo usavano un bel primo, però è bello che non lo guida, e glielo ho dato. Io ho come non c'è il capo d'alimentazione da dietro perché ha due vini. Questo quello ve l'ho messo io, dice, l'ho messo in un computer, quindi l'ho appena adattato perché non entrava nella guida originale, quindi l'ha dimostrato la ragione, appena rubino e gliel'ho messo, perché c'ha tre tiri, due laterali e uno appena più alto. te lo prendi nuovo portiere, di tu cosa ti uccido e ti tranquilli. E dice il mio, se non te lo vedo dai, a cui è più facile e non è idoneo, la giudizio, non voglio, visto che magari si può pubblicare a radio, eccetera. Ma se no, già ce l'ho uno di questi, mi ha detto, già glielo metto lì. E niente, è un bel contento. È una radio vintage, UHF, bella. E stiamo parlando qui con gli altri amici che avevano, ma qui ma si fanno benissimo di superchetti, non si vuole fare danni, devo avere un bastoncino come anni fa, e allora me lo vabbè, c'è gente che ha radio amatoriali, li usa solo per fare ascolto, non entra come radio amatori, li ascolta, li usa come... Ma sai che tu ti capi un microfono e ti poni un tappo, prendi il tappo del PL, mi fai un tappo dietro dove, visto quella che era capita, la togli, dove c'è il buco gli metti un tappo nero e sei a posto. Ma infatti quello che avevo io, anche se sta microfono, si sentiva tutto, non veniva problema, ma lì. Anzi, aveva addirittura il tappino di, come ti dici, praticamente senza microfono e potevi conversare nei vari mondi serrati. O forse, non lo so come, ma comunque io quando ce l'avevo io qua che l'accendevo non veniva mai il microfono attaccato, cioè che mancava lo di lì, c'era abbastanza, complice. Però poi alla fine non pensava mai il figlio, me lo venivo. Ma hai fatto bene, tanto, cosa ne vai? Anche nella frequenza di amatoriali c'è poca gente adesso, non è più come prima si tende a un bel gozzi, ma a me però non sono radio amatori, capisci a me? Già lo so, già, allora io quando ero tipo ragazzo, dimmo 20 anni fa, forse di più, che c'avevo la radietta, c'avevo una Intec 520 mi pare, no mamma mia. Comunque era 40 canali e c'erano tutti gli enti di Valleluglia, io ho fatto il mio gioco, erano tutti, davvero ancora arriviamo in Italia che sto facendo importante, l'altro bisogno di cosa, capito? Qua a Sassari facevano le gare, c'era Briscolone che modulava da cosa, come si chiama, da Badesi, che facevano le gare a chi arrivava più forte, stavano sino alle 7 di mattina in radio, mamma che mi diceva spegni con la radio che dobbiamo dormire, si mette pure il cuffio per non spegnere, poi ritornava, non è ancora spenta, e allora ci si divertiva, però aveva pure niente, ero piscato, le mettevano portate, non ti facevano parlare, ti parlavano sopra, insomma, c'era un po' di crema. E diverso, c'erano anche ragazze, ed era tutto diverso. E me lo ricordo io perché io avevo praticamente visto il tessuto di era un po' facile da 40 canali. Mi avevo collegato il capo dell'antenna con lo spinettino alla radiolina e poi avevo l'alimentatore da sul comodino per alimentare il barattino, diciamo, dal portatile. C'avevo l'antenna vista, allora c'avevo quella una specie di tandem mi pare si chiamava, tipo bastone, un metro. E ce l'avevo nella ringhiera tipo della soffitta e prendeva tutto il golfo della ginnastica. E funzionava abbastanza bene, era discreto. Infatti con quelli di Valleluglia parlavo, con quelli di Rassegoccio parlavo, con questi Giorra o certo. Avevo qualche difficoltà magari verso Sassari perché di schiena ero tappato tipo dai monti, diciamo, e quindi non è che magari in basso di pianto. Forse magari se c'era qualche spiraglio riuscivo a... Però nel genere eravamo tutti come tutti lì, a sotto che era un flusso di niente con i barattini e quindi era anche questa pure di chiave. Come hai detto tu, senza riguardo di Manzano, a Rizzito, magari dica, mamma mia, ma non è solo il giusto che ti di lavare i figli, vabbè, questi bello che si dava tutti. Allora ripeto, la mano per i figli. Ma io come te si scia, da voi non ci trazzi più d'ora, mi dice pure le cuffie, non fa più davo, ma ascoltavo le gare che facevano e tutto. Allora mi sono gribato l'antenna, attaccato il lineare, parevi più forti, c'erano gli stessi modi di co***o. Sì, c'era, come se no mi veda, mo con un braccio di ferro, e dai, è questa che attacco il biscottino. Stanno vivendo di venire una bottana e gli dice avanti su più sulla busta con l'antenna e tagliamo tutti gli anni e io rivedo, cioè tutti tagliamo a rivedo e poi gli dice ma cosa sei stato a fare? Sei stato a fare casino o a fare da cognome? E gli dice no, era per vedere a vedere se arrivavo di segnare forte, la dice già ti sentiamo ed erano tutti quanti una riga io. E uno la usa con un microfono al tavolo, ha schicciato il microfono e la busta portante fissa con lineare, valvolare, cazzo di chi lineare cruci, valvolare, e c'è drumiddu, è copiato di tutto cazzo, e dice che era ciappato tutto niente. Sì, a chi da chi? Mica quando si può, c'è il lineare che non è che lo puoi dire ficciando il buco di gatto, mi attira la valvola come sta bugini, la bugini non si piegge. Io ce l'ho un lineare con la valvola, c'ho un 1ZG vaggio a valvola, ce l'ho acceso, ma adesso non sta in bar. Sì, tutti i buttoni non lo gioco a tanto arriva, va, aspetta che lo accendo per me. Mi, vai a steso, prova 1, 2, 3, prova a cambio. Però c'è 9, 30, di grazie a lui. Ehi, c'è BV 131, sicuramente. Scappa Roger, affermativo, chi su vai? Che quando schiacci la portante giri il pomellino e tari l'antenna fino a dove si ferma la frecciolina. Quello riccio. Ogni tanto lo accendo, però molte volte lo lascio acceso ma in stand by. Invece adesso dimmi avanti se sta dando il buono in stand by. Prova! Adesso dovrebbe essere in stand by, perché c'è scritto stand by. Prova 1, 2, 3, prova a cambio e c'ho il microfono da tavolo, un MBT4. Sì, 9.10, da 9.10 vai a 9.30, funziona egregiamente. Quindi già va bene, il microfono va bene, me l'hanno sistemato perché era cablato per un altro baracchino, io sto usando un Alan 68, Alan 68 di Bibilucci 1985, che è omologato, da 34 con un altro. Ed è tutto originale e funziona bene, uso sempre quello. Tanto, nasce un bambino, nasce anche TQC, Alan 48, però questo, siccome mi ho messo l'adesivo tutto di giro che para, radio verniciabile, radio fatto dopo, quando sono toccati ho visto che era tutto originale, tablato dentro, senza cristalli, tutti i dati puliti, ha detto boh, ci uso questo, originale, perfetto, penso che non mi venga problemi. E se ti piacciono sempre tutti. E c'ho l'antenna invece, l'antenna c'ho quella bianca Gaim System, che è tutta una lattesa. Me l'aveva consigliata Giulio, un signore di casa. Non forse lo conosci. E niente, allora mi ho comprato quello. E ho messo quella di l'antenna. E ho visto che uno strumento umano gli ha fatto la carina, non l'ha fatto niente. E chi se si bicia forse? Se ti è stata bene, devi rinforzarla nelle giunture, perché sennò ti la dronca. A me me l'ha troncata due volte. Vabbè, comunque con l'antenna vanno molto bene, con le Game Master. Molto l'avete pagato. Allora, l'ho presa praticamente su Google, ho scritto antenna e mi ha dato tipo la fabbrica, quindi l'ho presa tipo da un rivenditore della fabbrica lì, me lo fanno pagata 144 euro spedita e ci aveva già i manicotti di rinforzo nelle due giunture e infatti gli ultimi giorni deve essere tipo un manicotto di un pochino di radiatore, YouTube, di bassetto, così molleggia meglio e non si spezza. E invece quando l'ho comprata nella scatola, adesso che l'avevano aggiornata e c'erano già, e quindi Davide, mio fratello, me l'ha messa qui su nel tetto che c'è la mansarda, io l'ha messa laterale al muro con 1,5 metri di tubo e qui ci ha messo un'antenna, quindi non ce l'ho manco a casa. E che magari prende tutto il golfo dell'Asinara e quindi funziona verso il bavino. Però l'altro giorno quando c'era il vento, come lui abita di fronte, Davide, gli ho detto, Davide, è bello che c'è antenna lì, che è regolare, ma tu già va bene, la perdente si pare che verta, però già no, già è flesso il dilemma, già non si bronca. E invece cosa ci aveva la l'amante va turbo e gliel'ha aspettata, perché prima di che la punta di inquinante, uno si ritrova di un grosso e si è capitato. Ma come ha visto che se parla del carriera di noi ha facciato un attimo di vigili, questo è quello che ha fatto il figlio. Il pacco! Esatto! Ma vai un po' bubino, beccami, che va sì, un bel freddo, insomma, il varugoso, la sua hall delle radio. Io sono da un po' che non lo so. E ti raccogli da un tipo con Gabbino, con Ceratino, che erano i 20 anni, i 12, però non c'era Franco. Guarda, io devo salutare che il cane deve mangiare, devo mangiare anch'io. Mi sono trattenuto perché l'ho portato un po' prima stasera, perché sennò qui piove, è un casino. Adesso voglio che faccio da mangiare, mangio anch'io, mi guardo un po' di televisione, dai. Mi ha fatto piacere fare queste ore. Ogni tanto ci vuole, dai, un po' di chiacchierata, no? Buona serata, buona continuazione, ci sentiamo. Ehi, a Caparoggio, e allora già ci sentiamo. Buona cena, buon tutto e ci sentiamo magari alle più fine. Mi ha fatto piacere anche a me. A Romanzi ci avevamo un po' la testa libera, là ci si è un po' smanettato il cervello. Anna, ciao, buon proseguimento, alla prossima.